Tutti gli dèi delle nazioni sono idoli, ma l'Eterno ha fatto i cieli. Lo scopo di queste riflessioni è quello di spiegare perché crediamo che Dio esista. Da un certo punto di vista è veramente anomalo uno studio del genere, perché se noi cerchiamo di dimostrare o spiegare le ragioni che ci inducono a credere nell'esistenza di Dio, significa che vi sono persone che non ci credono. Queste persone sono chiamate atee, parola che deriva dal greco ateos, composta da a privativo, cioè quell'elemento che, in composizione con un termine, serve a indicare negazione o assenza del concetto da questo espresso, e da theos, cioè Dio. In pratica, l'ateo è colui che nega l'esistenza di Dio, chi non crede ad una vita dopo la morte, che non accetta il soprannaturale. Noi esseri umani abbiamo la grande capacità di fare l'abitudine a quello che vediamo di consueto, anche se miracoloso o impossibile. Infatti, la nascita di un bambino, che è sempre un miracolo, non ci dice più di tanto perché si compie ogni giorno, mentre una donna in 2 plus per la strada fermerebbe il traffico solo perché questa abitudine così usuale in altri paesi non lo è per noi. Così è dell'ateo. Noi non ci stupiamo che si neghi l'esistenza di Dio, ma queste persone sono veramente fuori della norma, dal momento che in ogni epoca e nazione si è sempre creduto a qualcuno, ad un eccelso, ad un essere che è al di sopra degli uomini. Spesso dopo una conversazione su questo tema le conclusioni più frequenti sono: ma qualcuno ci deve pur essere. A testimonianza della fede in questo qualcuno del soprannaturale vi sono i luoghi sacri, uno dei quali è il cimitero. Perfino gli uomini della prima età della pietra avevano un rispetto verso i propri defunti che andava oltre quello umano. Il modo nel quale seppellivano i loro morti dimostrava la fede in una vita ultraterrena. Armi e vasi erano collocati vicino al corpo per indicare che sarebbero stati usati nelle felici zone di caccia dell'aldilà. Anche gli egiziani mettevano accanto al morto frutta e odetti di cui si servivano durante la vita terrena, perché non fossero aggravati nel lungo viaggio. In Italia i morti sono ricordati in modo particolare il 4 novembre, mentre in Giappone vengono visitati particolarmente a Heigan, che ricorre 2 volte l'anno nell'equinozio di primavera e di autunno, e a Obon, che cade a metà estate. Se l'uomo si rende conto che l'esistenza continua dopo la morte, i luoghi sacri diventano un punto di incontro tra la creatura e l'essere supremo. E, sufficiente ricordare le città della Mecca per i musulmani e Gerusalemme per gli ebrei, il fiume Gange per gli induisti. In Giappone, la più piccola isola di Shikoku ha una famosa strada che è percorsa da pellegrini, lungo la quale ci si imbatte in almeno 88 tempi buddistici. Forse la religione con più luoghi sacri è il cattolicesimo romano, che ne ha milioni sparsi per tutto il mondo. Quindi, quando parlo ad un ateo mi sento un po' a disagio, e questo non per me, ma per lui, per la sua posizione che ritengo irrazionale. Ma da un po' di tempo ho imparato ad accettare tale irrazionalità, soprattutto da quando ho visto in televisione un servizio sui campi di concentramento in Germania. Tutto il mondo ancora oggi rabbrividisce di fronte a documenti che dimostrano lo sterminio di milioni di ebrei. Eppure, in questo servizio vi erano persone incredule su tali fatti e ne negavano l'evidenza, affermando con fredda sfacciataggine che tutto questo non era altro che una montatura per parlare male dei tedeschi. Da allora mi sono detto che se una persona è capace di negare lo sterminio di milioni di ebrei, dei quali abbiamo anche dei filmati, è anche capace di negare l'esistenza di Dio. Rivolgendomi all'ateo, il problema dell'esistenza di Dio lo risolverei in pochi secondi, perché per affermare che Dio non esiste bisognerebbe essere onniscienti, altrimenti questo essere potrebbe trovarsi in qualche angolo dell'universo che noi non conosciamo. Solo un uomo onnisciente potrebbe essere certo di avere una conoscenza sicura su qualsiasi cosa. Quindi, dal momento che non esiste un uomo onnisciente, nessuno potrebbe per onestà intellettuale affermare che Dio non esiste. Ma accettiamo il dialogo. Innanzitutto, quando parliamo con un ateo è necessario trovare un terreno comune dove poter dialogare, e questo terreno non può certamente essere la parola di Dio, perché se egli nega Dio, nega di conseguenza anche quella che noi riteniamo la sua rivelazione. L'unica realtà comune sia al credente che all'incredulo è l'universo. Su questo possiamo intavolare un discorso, perché l'universo è un dato di fatto che non può essere negato. Possiamo al massimo arrivare a conclusioni diverse, ma non possiamo negare ciò che ci circonda. È interessante notare che nelle religioni e nelle culture antiche si trovano numerosi miti riguardanti le origini. Certi filosofi affermano che tutto è Dio, che il mondo è Dio o che il divenire del mondo è il divenire di Dio. Panteismo. Altri hanno detto che il mondo è una emanazione necessaria di Dio, che scaturisce da questa sorgente e ad essa ritorna. Alcuni hanno sostenuto l'esistenza di due principi eterni, il bene e il male, la luce e le tenebre in continuo conflitto, dualismo-manicheismo. Altri ammettono che il mondo sia stato fatto da Dio, ma alla maniera di un orologiaio che costruisce il suo strumento e, una volta fatto, l'avrebbe abbandonato a se stesso, deismo. Alcuni non ammettono alcuna origine trascendente del mondo, ma vedono in esso il puro gioco di una materia che sarebbe sempre esistita, materialismo. Tutti questi tentativi di spiegazione stanno a testimoniare la persistenza e l'universalità del problema delle origini. Per un cristiano, invece, l'universo costituisce la prova in favore dell'esistenza di un creatore. Vedremo quindi quattro prove o motivazioni a favore dell'esistenza di Dio. 1. Il principio della casualità. Il punto di partenza si trova nella nostra anima. Noi sappiamo di esistere e anche l'ateo non può negare questa realtà. Il passo successivo è inevitabile. Noi non abbiamo creato il nostro corpo. Quindi esso deve provenire da qualcuno dotato di una potenza sufficiente per poterlo fare. A questo punto facciamo appello ad un assioma. Per produrre un dato effetto deve esservi una causa adeguata. Ora, come può una forza impersonale, come la materia, produrre un essere personale? Come può ciò che non pensa e non ha volontà produrre ciò che pensa e quel che vuole? Il materialismo dichiara che l'universo si è formato da solo, ma nessuna combinazione di atomi o di molecole poteva produrre qualcosa che non consiste di atomi e molecole, la coscienza e l'anima. Inoltre, il fatto che l'universo intorno a noi sia intelligibile indica che la mente che lo ha progettato e prodotto è dotata di intelletto. La legge e l'ordine esistenti nell'universo ci indicano una persona, perché solo una persona è razionale. La natura obbedisce alle leggi della geometria, le stelle nella loro rotta sono rette da leggi e tutto questo prima che noi scoprissimo la matematica e la fisica. Se gli uomini possono calcolare che una astronave può atterrare sulla Luna in un preciso punto, tenendo presente che la Terra ruota, la Luna ruota e tutto il sistema solare è in movimento, significa che tutto si muove con la precisione di un orologio. Proprio per queste osservazioni, qualcuno ha definito Dio un matematico. Se l'universo obbedisce a delle leggi, esse non possono essere il prodotto del caso e neppure della materia, ma di una mente che ha ideato tutto questo. Non può neppure essere stato l'uomo, perché, quando è apparso sulla Terra, queste leggi esistevano già. Siamo di fronte quindi ad un essere superiore all'uomo, del quale l'uomo non ha sempre riconosciuto l'esistenza, anche se non sempre ha potuto definirlo. Questo essere la Bibbia lo chiama Dio, eterno, l'eccelso, altissimo creatore. Se vogliamo accettarlo, questo è il Dio che ha creato il mondo, altrimenti noi continueremo a barcollare nel buio, inciampando in interrogativi senza fine come fanno l'ateo o lo scettico. Solo una persona poteva creare altre persone e un mondo intelligibile. 2. La prova del disegno. Il piano e il progetto sono caratteristiche delle nostre menti e quando consideriamo la Terra sulla quale viviamo, siamo obbligati a concludere che la causa dell'universo, cioè chi ha creato ogni cosa, è capace di pensare con uno scopo, con un disegno. Esempi. Se la Terra non fosse inclinata di 23 gradi, il vapore d'acqua degli oceani salirebbe al polo nord e al polo sud, condensandosi e accumulandovi montagne di ghiaccio. Se il Sole producesse solo metà del calore che ci dona, geleremmo tutti; se fosse il doppio, morire. Se la Terra ruotasse più lentamente dei suoi oltre 1000 chilometri all'ora, geleremmo di notte e bruceremmo di giorno. Il rapporto reciproco di pioggia e sole, suolo e aria nella produzione del cibo per sostenere la vita è una delle più potenti prove di una causa che è una persona razionale con facoltà di progettare. Come disse Alan Sanders, trovo davvero improbabile che un tale ordine sia venuto dal caos. Ci deve essere un principio organizzante. Per me Dio è un mistero, però è la spiegazione del miracolo dell'esistenza, il motivo per cui ci è qualcosa piuttosto che niente. 3. Prova di bellezza. Caratteristica della personalità è quello di godere della bellezza. Dolore e gioia sono stati reali. Dell'anima. Noi siamo capaci di amare e di odiare, di godere della bellezza e della grandiosità del mondo. Ora, l'armonia dei colori nella natura, il canto degli uccelli, il tintinnio della pioggia, il fragore di una cascata, la maestosità di una tempesta di mare, il profumo dei fiori, l'aria fresca del mattino, il viso splendente di un innamorato, tutti indicano una causa che ha progettato queste cose per la gioia della sua creatura. Solo una persona con attitudini artistiche poteva produrre queste cose. 4. La prova morale. L'uomo è un essere morale. È una creatura dotata non solo di appetiti e di passioni, ma anche criteri di giusto e di ingiusto, di giustizia e di dovere. Chi ha prodotto queste capacità intrinseche nell'uomo? Non si intende che alla nascita uno ha una guida infallibile che gli permette sempre di... Oggi si insiste che non esiste quella cosa che si chiama coscienza. Si afferma che la coscienza è semplicemente una questione di educazione, che i criteri morali cambiano. Si afferma che non vi è un unico criterio di giusto e di ingiusto valido per tutto il mondo. Non tutte queste osservazioni sono errate, ma bisogna vedere che cosa si intende realmente quando si parla di coscienza. Discernere se una cosa è giusta o sbagliata. Non si intende che questa capacità sia indipendente dall'ambiente e dall'educazione. Per coscienza si intende quella caratteristica innata nella mente che mette in grado una persona che ha raggiunto l'età della ragione di formulare un giudizio circa la natura giusta o ingiusta di una qualsiasi linea di azione che si presenta alla mente. Quindi, come non esiste alcuna maniera nota per far derivare l'intelligenza, e quindi impensabile che tutte le splendide caratteristiche del genere umano, come giustizia, amore e altre simili, benché corrotte dal peccato, siano state prodotte da una causa che non ne possiede una. L'unica spiegazione razionale è che un essere morale deve avere come suo creatore un Dio morale. Conclusione. È importante chiarire che cosa intendiamo quando affermiamo di provare l'esistenza di Dio. Non intendiamo parlare di una prova matematica. Non intendiamo parlare di prova di laboratorio, come quelle date dalla riuscita di un esperimento. Non si può porre Dio sotto un microscopio, né vederlo attraverso un telescopio. Il genere di prova di cui discutiamo è la prova deduttiva. In pratica, il culmine di innumerevoli linee di prova convergono tutte verso una conclusione. Inevitabile. Il mondo e l'uomo sono stati creati da un essere il quale carattere possiamo capire osservando le sue opere. L'affermazione di fede del salmista citata all'inizio del nostro studio è veramente straordinaria. Tutti gli dei delle nazioni sono idoli vani, il Signore invece ha fatto i cieli. Salmo 96,5. Se leggiamo l'inizio dell'affermazione di fede, tutti gli dei delle nazioni sono idoli vani, la domanda che ci si pone è questa: non può questa affermazione farla chiunque? Che cosa ha l'Eterno per non essere confuso con gli altri idoli? Il salmista testimonia: il Signore ha fatto i cieli. Ecco la differenza tra gli idoli delle nazioni e il Dio degli ebrei, il Dio di Israele presentato come il Dio creatore. Nessun altro Dio di qualsiasi popolo religioso si presenta come tale. Leggiamo nella lettera agli ebrei: ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Ebrei 3:4. Di fronte a questa affermazione mi sorge un grosso dubbio. O 2000 anni fa gli uomini erano pratici, semplici, realisti o ingenui e stupidi. E se affermavano che se vi era una casa, ciò implicava un costruttore. Possiamo, dopo 2000 anni, affermare che erano stupidi e ingenui? A me sembra che oggi, con tutto il nostro ragionare, abbiamo perso l'obiettività. Noi sappiamo, vedendo una casa, che qualcuno l'ha creata. Come possiamo dunque affermare che esiste un universo che per noi è una casa, senza l'opera di qualcuno? Il Salmo 19 è veramente prezioso per questo argomento. 1. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. 2. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. 3. Non hanno favella, né parole, la loro voce non s'ode. 4. Ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là, Dio ha posto una tenda per il sole. 5. Ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. 6. Egli esce da un'estremità dei cieli, e il suo giro arriva fino all'altra estremità, nulla sfugge al suo calore. Il salmista sta constatando che i cieli raccontano, testimoniano, hanno un messaggio comprensibile che giunge a tutti anche senza l'aiuto di una delle 6.750 lingue umane censite, senza contare i dialetti. La creazione incita gli uomini a temere l'autore di queste meraviglie, a riconoscere la sua superiorità, a dargli gloria, a rendergli omaggio e a ringraziarlo per tutti i suoi benefici. Per questo principio, Paolo scriverà ai Romani che anche i pagani hanno conosciuto Dio e sono inescusabili se non pongono la fede in Lui. Romani 1:18-22. A quale tipo di conoscenza si riferiva? Ovviamente a quella della presenza, della potenza e della gloria di Dio nella creazione. Le tracce di un Dio intelligente sono evidenti. Sempre nella lettera ai Romani, riferendosi all'incredulità di Israele, Paolo lo trova colpevole, perché ha potuto udire la voce di Cristo tramite la creazione. Ecco come ha espresso l'inescusabilità di Israele. 14. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non ci è chi lo annunzi? 15. E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. 16. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? 17. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. 18. Ma io dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Romani 14:14-17. Come Israele, ogni abitante del mondo può udire le parole della creazione. L'invito di Giobbe è dunque più che mai rilevante. 7. Ma interroga un po' gli animali e te lo insegneranno, gli uccelli del cielo e te lo mostreranno. 8. Oppure parla alla terra ed essa te lo insegnerà e i pesci del mare te lo racconteranno. 9. Chi non sa, fra tutte queste creature, che la mano del Signore ha fatto ogni cosa? 10. Che egli tiene in mano l'anima di tutto quel che vive e lo Giobbe 12:7-10. La domanda di Giobbe è di un'attualità impressionante. Chi non sa, fra tutte queste creature, che la mano del Signore ha fatto ogni cosa? La terra e gli animali lo sanno, ma c'è qualcuno che ancora oggi ignora queste cose. L'uomo. Proprio perché l'uomo può rifiutare con i suoi ragionamenti. L'evidenza è arrivato a sragionare, a disconoscere il suo creatore, a negare la realtà delle cose. Come scrisse Charles Darwin in una lettera del 2 aprile 1873, la scienza non ha nulla a che vedere con Cristo. Se qualcosa non cambia, la pazzia per l'umanità è ormai alle porte. La posizione di alcuni cristiani è che Dio si è limitato a creare l'universo e in seguito tutto si è evoluto, credendo in questo modo di conciliare la teoria dell'evoluzione con quella della creazione. Ma l'evoluzione e la creazione non possono andare d'accordo. Innanzitutto perché l'evoluzione è una teoria, mentre il testo biblico si riferisce ad una realtà. Inoltre, nessun evoluzionista può affermare che il Sole, la Luna e le stelle, secondo il testo biblico, sono state disposte nella distesa dei cieli il quarto giorno mentre Dio metteva ordine sulla Terra. A mio avviso l'argomento della creazione è risolto definitivamente dalla testimonianza dei primi cristiani. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Ebrei 11:3. I primi cristiani confessavano che era per fede che essi credevano che l'universo fosse stato formato da Dio. Tenendo presente che la fede di cui parlavano era credere ad una dichiarazione di Dio, e che questa dichiarazione la leggevano nel libro della Genesi, nel principio Dio creò i cieli e la terra, il ragionamento dei primi cristiani era il seguente. Noi abbiamo compreso che l'universo è stato creato da Dio perché lo troviamo scritto nel libro della Genesi. Punto e basta. Il simbolo degli apostoli accettato da sempre dai cristiani esprime una volta per tutte la fede del credente di ogni epoca. Esso professa che Dio è il creatore del cielo e della terra. E il simbolo di Nicea Costantinopoli esplicita Dio è creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. È difficile se non impossibile confessarsi cristiani e non accettare tale credo. Qualcuno disse, puoi cacciare Dio dai tuoi pensieri, ma non dall'universo. È vero. Nessuna negazione può cancellare la realtà di un Dio creatore. Termino queste riflessioni spiegando il metodo che io uso nel provare l'esistenza di Dio. Prima di entrare in merito, desidero riportare uno scritto di Blaise Pascal, vissuto nel 1600. Considero con stupore con quale ardire costoro si accingono a parlare di Dio. Rivolgendosi con i loro discorsi agli increduli, cominciano col provare la divinità per mezzo delle opere della natura. Punto dir loro che basta guardarsi intorno per scorgere chiaramente in ogni minima cosa, Dio. E addurre, per tutta prova di così grande e importante argomento, il corso della Luna e dei pianeti. Questo è dar loro motivo di credere che le prove della nostra religione siano molto deboli. È veramente singolare che nessun autore canonico si sia servito della natura per dimostrare l'esistenza di Dio. Credo che il cristiano del XXI secolo commetta un errore se cerca di intavolare un discorso sulla creazione per dimostrare l'esistenza di Dio. Giustamente Pascal ha fatto notare che nessun apostolo si è servito della natura per dimostrare l'esistenza di un Dio creatore, e questo perché la Bibbia non cerca di provare la sua esistenza ma si limita a chiamare stolto colui che sostiene l'inesistenza di Dio. Salmo 14:1. Ciò che non deve sfuggire è che con la venuta di Gesù Cristo sulla terra il Creatore è uscito dall'anonimato. Gesù è Dio, Dio si è fatto uomo. E noi dobbiamo intavolare il nostro discorso su Gesù. Noi non abbiamo prove per dimostrare l'esistenza di un vago Dio creatore, ma le abbiamo per dimostrare che Gesù è esistito come uomo. Quando trovo una persona che afferma di essere atea, se gli parlo di Gesù egli non nega la sua esistenza. Al massimo le persone possono negare che Gesù è Dio, ma non possono negare che sia esistito e che abbia parlato in modo come nessuno ha mai parlato. Se si nega la storicità di Gesù, si deve di conseguenza negare la storicità di Pilato e dei suoi contemporanei, e ciò mi sembra difficile se non impossibile. Inoltre, abbiamo numerose testimonianze di non credenti sulla storicità di Gesù. Negare un Gesù storico equivale a rifiutare una macroscopica evidenza. Giustamente Pascal continua col dire: noi conosciamo Dio soltanto per mezzo di Gesù Cristo. Tutti coloro che hanno preteso di conoscere Dio e di provarne l'esistenza senza Gesù Cristo avevano soltanto prove inefficaci. Per provare Gesù Cristo noi invece abbiamo le profezie, che sono prove solide e tangibili. Il tema delle profezie si colloca nell'ambito della fede cristiana e non può essere sottovalutato. Nessun uomo conosce il futuro, neppure gli esseri angelici. Esso appartiene esclusivamente a Dio. La Bibbia è ritenuta la parola di Dio anche perché centinaia di profezie si sono avverate. Circa 200 profezie riguardanti la storia mondiale annunciate nel libro di Daniele si sono compiute. Circa 300 profezie dell'Antico Testamento che annunciavano la venuta del Messia sono state realizzate. La data della sua morte, Daniele 9, il luogo della sua nascita, Michea 5:2, la sua crocifissione, Salmo 22:16, Il luogo della sua sepoltura, Isaia 53, 9, la sua resurrezione, Salmo 16 e 10, la sua glorificazione, Salmo 110, 1, e molti altri dettagli si sono adempiuti. Come non si adempiranno il suo ritorno e il suo regno mondiale sulla terra, avente come capitale Gerusalemme? Zaccaria capitolo 14. La profezia è stata data per aiutare gli uomini a credere nella parola di Dio e nel Dio della parola, e questo Dio è Gesù Cristo fatto uomo. Paolo afferma: Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra. Colossesi 1, 15, 16. Virgolette, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Colossesi 2.9. Chi può quindi parlare con sicurezza del carattere di Dio? Come abbiamo considerato, noi possiamo capire il carattere di Dio dalle sue opere. Ma anche in questo caso dobbiamo ammettere i nostri limiti, perché l'opinione che abbiamo del carattere dei nostri genitori è molto diverso da quello che avevamo da bambini. La ragione perché noi siamo diventati più maturi. Chi di noi allora può dire di essere abbastanza maturo per capire il carattere di Dio? Inoltre, ognuno di noi riceve un aspetto del carattere di Dio in base alle peculiarità della sua personalità. Infatti Dio si mostra puro con i puri, pietoso con i pii, integro con gli integri. Salmo 18 e 25. Dio è troppo grande perché possiamo conoscerlo appieno in tutti gli aspetti del suo carattere. Ecco perché se fosse chiesto ad ognuno di noi di descrivere il carattere di Dio, daremo delle risposte diverse, anche se complementari. Però, bisogna aggiungere, vi sono caratteristiche di Dio che sono evidenti a tutti, mentre altre è Lui stesso a definirle. Ad Abramo Dio si presentò come l'Onnipotente perché più tardi gli promise un figlio quando era impossibile averlo. A Mosè sul monte Sinai Dio si presentò come colui che è, cioè l'Eterno presente. Questa caratteristica di Dio ci dice che Egli è presente ogni momento nella vita di un essere. In Esodo 34, 14 Dio si presenta come il geloso, cioè colui che non tollera che i suoi amoreggino spiritualmente con altri dii. In Isaia 45, 15, il profeta riconosce che Dio è un Dio che si nasconde. Questo perché Dio vuole stimolare in noi il desiderio di Lui. In Ebrei 1, 1 a 2 l'autore afferma che Dio ha parlato in svariati modi mediante i profeti, ma negli ultimi giorni ha parlato tramite Gesù, suo figlio. Una caratteristica di Dio è che Lui parla, mentre gli dèi delle nazioni sono idoli muti. Dunque Gesù è stato la voce di Dio, e per questo viene chiamato il Logos, cioè la parola di Dio. Infatti, Giovanni afferma nel suo Evangelo che la parola è stata fatta carne. Guardando quindi a Gesù, noi possiamo comprendere meglio il carattere di Dio perché Egli è l'immagine dell'Iddio invisibile, perché il Padre e Cristo sono uno, e chi ha visto Lui ha visto il Padre. Noi sappiamo che Gesù aveva tutte le caratteristiche di Dio: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo, eccetera. In Dio infatti si trovano tutte queste cose. Ma vi è una caratteristica di Gesù che merita di essere considerata perché troppo spesso sottovalutata. Se infatti si legge nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. 7. Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare. 8. Pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. 1 Pietro 2, 6 a 7. Gesù è la pietra angolare, eletta, preziosa, capace di salvare chi crede in Lui. L'altro aspetto è che Egli è anche una pietra d'inciampo o un sasso di intoppo. In effetti questa è la realtà che è intorno a noi. Chi crede in Cristo ha pace, gioia, la luce della vita. Ma per chi non crede, Cristo diventa oggetto di incomprensione, diventa ragione per inciampare nella fede, diventa un ostacolo per poter credere. O Cristo diventa fonte di benedizione o ragione di maledizione. Questo è l'Evangelo. Tramite Cristo puoi credere in Dio, altrimenti egli diventerà una ragione per non credere. La Bibbia afferma che vi è un Dio che ha creato il cielo e la terra, che il tuo futuro eterno dipende dalla risposta che dai alla rivelazione di Dio in Cristo Gesù. La questione quindi dell'esistenza di Dio e di Cristo suo Figlio è di grandissima importanza e tu non puoi esimerti dal dare una risposta. Il non prendere una posizione significa avere già una posizione contraria. Gesù sentenziò che chi non era con lui era contro di lui. Nei confronti di Cristo non vi è neutralità, perché lui ha parlato come nessuno ha mai parlato. Gesù ha affermato di essere la verità, perciò non vi può essere indifferenza nei suoi confronti. Gesù si pone come la risposta ai tanti interrogativi e dubbi. Essere nel dubbio è lecito e umano. Rimanere nel dubbio dopo aver conosciuta la rivelazione di Gesù significa che non si è creduto che Gesù sia la verità. Il cristiano non è colui che è certo delle sue convinzioni, ma colui che accetta che quello che Gesù ha detto di me e di se stesso sia vero. Se Gesù non è la verità, l'umanità intera è perduta senza speranza, senza certezze. Se è ciò che ha affermato, io e te abbiamo un punto fermo e certezze a non finire. Gesù non ci invita a fare una certa scelta, ma una scelta certa. Gesù non desidera che siamo sicuri della nostra scelta, ma che ci fidiamo che Lui sia la scelta giusta. Un ateo diceva: «Vi è una sola cosa che guasta tutto il piacere della mia vita, la paura che la Bibbia sia vera». Il credente Pascal affermò: «Avrei molto più paura di ingannarmi e di trovare poi che la religione cristiana sia vera, che di ingannarmi credendola vera». Se dopo queste riflessioni senti il bisogno di regolare la tua vita con Gesù, sappi che è Dio che ti sta parlando, perché solo Lui può parlare al tuo cuore. Lui ti ha creato, ti ha fatto a sua immagine, ti ha dato vita e te la mantiene, ti ha messo nel cuore il senso dell'eternità perché tu lo cerca, desidera avere un rapporto con te di amicizia. Con un atto di fede inizia a credere a ciò che è evidente, le risposte agli altri interrogativi verranno in seguito. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Proverbi 4:18. Chi mette in pratica la verità viene alla luce. Giovanni 3:21. Sappi che se cerchi Dio fuori da Gesù Cristo trovi il diavolo. Scegli dunque la via, la verità e la vita che è Gesù Cristo.